E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. La zanzara. Estate. Con Alessio Maurizi. Buonasera, buonasera cari ascoltatori, eccoci qua, mercoledì 15 agosto, la zanzara estate, anche oggi vi teniamo compagnia, vi facciamo però riascoltare alcuni degli interventi che sono andati in onda nei giorni scorsi. Buon ascolto. Michele Emiliano, sindaco di Bari, buonasera. Buonasera, come va? Benissimo, grazie, lei? Ma abbastanza bene, siamo qui ancora al lavoro e quindi fa un caldo terribile. Non c'è l'aria condizionata al comune di Bari, sì. Sì, però non è che si riesce a stare sempre in ufficio, anche perché i sindaci, soprattutto quelli della città medie italiane, sono un po' come i sindaci di paese, devono correre da una parte all'altra. Lei poi è uno che si muove, insomma, è uno attivo. Mai abbastanza, secondo i miei concittadini, dovrei fare molto di più. Qualche critica gli è arrivata recentemente, vabbè, è normale, dialettica politica da parte del PDL. Ma devo dire che quando non arrivano le critiche vuol dire che hanno perso la speranza che queste critiche possano sortire un qualche effetto. Io dico sempre che finché si arrabbiano vuol dire che ci credono ancora. E quando smettono di arrabbiarsi che bisogna preoccuparsi. Ma perché dovrebbero smettere di arrabbiarsi? Perché? Perché perdono la speranza. Io, insomma, mi è capitato in soprattutto. Cioè lei vince, stravince, quindi gli altri diciamo che... No, mi riferisco ai cittadini. Per esempio, noi abbiamo avuto alcune avventure, parlo in Italia di alcune città molto male amministrate, dove a un certo punto i cittadini non si arrendevano, hanno fatto altro che rassegnarsi, lasciar perdere, era inutile anche protestare. Senta, vogliamo parlare con lei anche di questa lista dei sindaci, se ne parla, si è scritto sui giornali. In realtà viene chiamata lista dei sindaci dai nemici della lista. Ecco, già questa è una precisazione importante, perché? È una lista dei cittadini, perché noi sindaci non abbiamo alcuna intenzione di smettere di fare i sindaci. Però la state promuovendo voi. Abbiamo detto più volte al centro-sinistra, fate attenzione, i cittadini italiani dei partiti non hanno più fiducia. Quindi provate a immaginare di promuovere una lista dei cittadini nella quale in qualche modo i migliori tra i cittadini italiani, i migliori per storia professionale, morale, per fiducia riscossa nei quartieri, nelle città, possano immaginare di partecipare ad una legislatura in Parlamento costituente, ovviamente a supporto del centro-sinistra, perché quasi tutti i sindaci di cui parliamo sono di centro-sinistra, certo. Nessuno di noi scambierebbe il ruolo così importante di un sindaco con quello di un semplice parlamentare, quindi è anche, devo dire, odioso il fatto Vabbè, che poi qualcuno c'è l'incompatibilità. Questi vogliono far carriera. No, c'è l'incompatibilità, questo è chiaro, però scusi Emiliano, parliamoci chiaramente, quando a sponsorizzare una lista di cittadini ci sono nomi importanti come il suo, come quello di De Magistris, si è parlato di Pisapia, questo è importante perché poi spinge la gente a capire di cosa si parla e a schierarsi. Io mi ero scritto nell'introduzione dell'intervista che questo doveva essere un po' il dream team, no? La squadra dei sogni del centro-sinistra. Perché in campo, appunto, De Magistris, Emiliano, non so come Pisapia. Si dica incubo in inglese. No, no, è perché incubo, adesso lei fa l'ironico. Tutti i sindaci, Orlando. Mi faccia finire, però. Perché sì, sennò, che hanno vinto anche contro le attese, contro le previsioni, come Pisapia a Milano, e quindi il meglio del meglio del meglio. Poi però ci sono state una serie di defezioni e di distinguo. Io no, io non c'entro. Lei dice io no perché continuo a fare il sindaco, però ci sono anche altri che dicono proprio io non c'entro nulla. Tipo mi sembra di capire Zedda, per esempio, di Cagliari e Doria. Chi è che fa parte di questo progetto, anche solo come sponsor morale, oltre lei, di questi che abbiamo detto? Non è un progetto, è una proposta che è una fase precedente. Vabbè, proposta, progetto, non faccia troppo il... A febbraio di quest'anno io mi sono permesso di dire al segretario del mio partito, io sono il presidente del Partito Democratico della Puglia, che il PD al sud è in uno stato di tale debolezza strutturale che avremmo avuto bisogno diciamo di un mezzo di come posso dire, di coinvolgimento, di inserimento di sangue vivo nel centro-sinistra attraverso la convocazione di una idea di una legislatura che non fosse composta dai soliti nomi, dalle solite nomenclature, perché qui se sbagliano il capolista in Puglia del Partito Democratico e ci mettono un nome piuttosto che un altro, qua si rischia che non va a votare nessuno, perché io non lo so. Per esempio, quale potrebbe essere un nome sbagliato? Prima adesso non me lo faccio dire perché io già sono abbastanza nei guai nel PD, poi se mi metto a fare i nomi è finita. Però quel che è certo è che l'elettorato del centro-sinistra vuole sicuramente assumersi la responsabilità di governo del futuro del Paese, ma non può farlo con gli stessi nomi della prima, della seconda Repubblica, quelli che riescono, cambiando nome ai partiti, a essere sempre loro a dare le carte. È evidente che serve anche qualche cosa di nuovo. Questo qualche cosa di nuovo è difficile che possa essere realizzato, per esempio, in un listone unico PD-SEL, come si sta prefigurando, che con lo scopo di cogliere il premio di maggioranza rischia praticamente di inserire tutti gli amici di Vendola in lista e tutti i nomi soliti del Partito Democratico. Io temo che una lista fatta così dal punto di vista elettorale sia un disastro e quindi sto cercando di avvisare il mio segretario di partito. Se però poi io, il mio segretario non mi autorizza a lavorare per qualche cosa di diverso, lei che io fa? Non muoverò un dito. Non lo fa? Cioè lei esegue gli ordini di Bersani? Da questo punto di vista. Io c'ho da fare il sindaco di Bari, ho una responsabilità che è già piuttosto grave. Se addirittura per fare una cosa del genere devo fare a botte con i miei... Però non è che adesso che c'è qualche impasse in questa proposta, adesso dà la colpa a Bersani che non glielo fa fare, in realtà non riuscite a fare. La rassegna stampa, io questa cosa l'ho sempre detta dall'inizio. Sì. Io l'ho chiesto a Bersani perché io finché sono... No, questo PD, è vero, lei ha sempre detto che era una proposta Bersani che faceva il PD. Faccio, però io ho letto anche che a questa cosa, però forse è sbagliata questa informazione, che è scritta su un articolo, mi pare, sul Fatto, sì, sta lavorando un assessore di De Magistris, Panini, Enrico Panini, ex responsabile della CGIL Funzione Pubblica, credo, a Napoli, al coordinamento di questa lista. Non mi risulta assolutamente, sarebbe paradossale che coloro che si offrono di coordinarla, i sindaci, sì, senza candidarsi, ripeto, coordinarla senza candidarsi, poi a loro volta si servano di altri coordinatori. Noi non stiamo dando vita a un progetto di un altro partito, per esempio. Beh, comunque anche una lista andrebbe coordinata. Di questa lista deve fare, deve scrivere su carta, sì, che si impegna a non dar vita ad un'altra formazione politica, si impegna a condividere il programma del centro-sinistra, ovviamente previa ammissione a poterlo formare assieme ai partiti del centro-sinistra e soprattutto a dar vita a gruppi unici del centro-sinistra alla Camera e al Senato, in modo tale da evitare qualunque tipo di effetto di disgregazione del centro-sinistra di governo. Lei ha detto, insomma, coinvolgere la società civile, sono espressioni, le abbiamo sentite mille volte, ma ha parlato di saggi. Abbiamo pensato a un metodo diverso, perché sì, è evidente che una lista così non riesce a reggere delle primarie vere e proprie, perché non c'è una struttura ancora che possa organizzare delle primarie. Chi potrebbe essere uno di questi saggi? 20 personalità importanti del nostro paese, ex presidenti della Corte Costituzionale, accademici di rilievo, grandi Unida, giornalisti, scienziati, anche solo 20 persone, cui far pervenire attraverso un semplicissimo sito internet i curriculum, o autopromossi da chi si vuole candidare, o promossi da terzi, sì, con delle motivazioni. Cioè chi potrebbe essere uno di questi saggi che tiene il coordinamento di questa lista? I nomi importanti ce ne sono tanti. Ce ne faccia qualcuno, giusto per... Ex Presidente della Repubblica, ce n'è purtroppo credo uno solo ancora in vita, se non ricordo male. Potrebbero essere Presidente della Corte Costituzionale, che ce ne sono tanti. Potrebbe venire in mente Zagrebeschi, potrebbe esserci Rodotà, possono esserci, mi creda, nonostante la decisione nella quale gli italiani loro sono caduti, sono gli italiani d'eccellenza ci sono ancora, sì, e molti di essi, parliamoci chiaro, per età o per ruolo non sono disponibili ad andare in Parlamento, ma probabilmente potrebbero essere coloro attraverso i quali scegliere il meglio che questo paese ha. Però poi ci dovrebbe essere un candidato alle primarie del centro-sinistra di questa lista. No, assolutamente no. No, il candidato che nemmeno questa lista potrebbe potrebbe, la lista dei cittadini dovrebbe sostenere, non ci avevo capito nulla, è uno Emiliano, dei tanti sì. candidati che si dovesse presentare alle primarie o addirittura quindi ci sarebbe un candidato, sceglieranno. Quindi ci sarebbe un candidato di questa lista alle primarie del centrosinistra? No, non c'è nessuna necessità che ci sia un candidato. Il nome peraltro del candidato premier sì. temo non sarà più scelto dagli italiani, né con le primarie né con la no, ma le primarie vostre del centrosinistra che stanno pensando ad una legge elettorale dove prima si votano i partiti e poi si vede chi fa il premier, diciamo così, col vecchio stile. Ora non lo so se questa legge reggerà mai. Ma scusi, ma Emiliano, ma le primarie il Partito Democratico dovrebbe farle, credo. Ma se fanno una legge proporzionale non credo proprio. Ah, quindi lei ci sta dicendo che le primarie sono tramontate? Io ho questa impressione. Come la dobbiamo chiamare? Dei cittadini promossa dai sindaci che non si candidano. Lei ride, ma cioè, ride lei, figuriamoci gli elettori che dovrebbero votarla questa lista, fa ridere, detta così. Fa ridere? Lei si è messo a ridere, ha detto... No, devo dire che siccome qui ormai ci sono solo liste civiche un po' dappertutto... Cioè una malattia partiti, questa, è una specie di contagio, no? Non è una malattia. È tutta colpa di Grillo, poi che... È un inevitabile... rimedio nel momento in cui i partiti hanno tanta difficoltà a essere credibili nella società italiana, è molto più facile che la credibilità sia quella delle persone. È un po' vero. E dunque sì. Noi stiamo cercando di scegliere se ovviamente il centrosinistra lo vorrà, perché altrimenti se Vendola e Bersani non sono d'accordo non se ne fa nulla, noi abbiamo il nostro lavoro, ce l'abbiamo. Però poi se Vendola e Bersani rischiano di perdere le elezioni non venissero poi a prendersela con noi. Però mi scusi, è un po' curioso che lei dica se Vendola e Bersani dicono di no, non si fa. Cioè, se c'è un'iniziativa, ci sono delle energie in campo, delle forze che avrete sondato, siamo tutti uomini va fatto. Non possiamo fare una cosa contro il partito al quale apparteniamo. Cioè sarebbe la classica lista civica come... Da indurci a uscire dal partito, ma insomma non credo ce ne siano. Allora vediamo così se sintetizza. Sarebbe come la classica lista civica, quella che si fa per esempio nelle elezioni dei sindaci a livello comunale, a sostegno del sindaco, a sostegno comunque chiaramente del Partito Democratico, per esempio predominante nel centro-sinistra, come avviene anche per il PDL nel centrodestra. Per pescare un po' più di voti tra i cittadini scontenti e delusi dei partiti, questo sarebbe? Mi pare una maniera molto riduttiva, per esempio noi a Bari senza le liste civiche non avremmo mai vinto le elezioni né nel 2004 né nel 2009, cioè qui il PD è un partito dal 15%, da solo non va da nessuna parte. Facciamo un attimo, sì. Quindi evidentemente c'è una rappresentazione, diciamo, di ciò di cui stiamo parlando, soprattutto nel Sud Italia, che è completamente sbagliata. Il Partito Democratico è in affanno ovunque, noi ormai pensiamo soprattutto alla nostra terra, perché siccome a noi non ci pensa mai nessuno... Ho capito che lei di questa cosa della lista civica nazionale, cioè ormai l'hanno imbarcata, però non gliene frega più niente, mi sembra questo. In che senso? No, nel senso che adesso sta insistendo che... Cioè, vi interessa quello che succede a Bari, ci interessa il nostro territorio. Interessa quello che succede alla nostra gente, perché sì. siccome della gente nostra non se n'è mai impippato nessuno, adesso finalmente abbiamo una classe dirigente che anziché vendersi, come scriveva Salvemini sì. nei suoi libri, vendersi al primo offerente a Roma, fa gli interessi del territorio, questo è importantissimo per noi. La classe dirigente intende al governo o al partito? Fenomeno del quale parlava Gaetano Salvemini, della facilità con la quale sì. le classi dirigenti del sud, in cambio di piccolo potere in sede territoriale, svendevano gli interessi delle terre che rappresentavano in Parlamento. È una storia che ho studiato sui libri di storia, come avrebbero dovuto fare un po' tutti. Spesso il sud non viene rappresentato nelle grandi decisioni che vengono prese proprio perché la nostra classe dirigente è molto assente. A proposito di classe dirigente, il presidente pugliese Vendola ha commentato la questione dell'Ilva dicendosi soddisfatto per la decisione del tribunale, il sequestro per, ha detto Vendola, un processo di ambientalizzazione della fabbrica. Secondo lei, cioè lei è d'accordo su questa valutazione? I magistrati hanno mostrato una pazienza e una flessibilità che obiettivamente per gli strumenti di cui dispongono era difficilissima. È chiaramente un'accusa molto pesante nei confronti della politica. La politica da anni non riesce a venire a capo di una questione: come si fa a produrre acciaio in Italia senza avvelenare l'ambiente, mantenendo i costi in un limite ragionevole. Ma è una cosa della politica o è una cosa dell'azienda? È una cosa della politica, perché l'azienda ovviamente finché può risparmia, evita di fare nuovi investimenti e chiede, batte cassa allo Stato, come credo poi gli sia andata anche questa volta, perché stanno ma per chi avere, dice che l'azienda è la proprietà 140 milioni gratis dallo Stato dopo avere in questi anni fatto utili iperbolici. Ecco, appunto, chi dice che con questi utili bisognerebbe pagare almeno il processo di ripulitura, di ambientalizzazione, come direbbe Vendola? Ecco, lo Stato la Regione ci ha provato, ma ovviamente non è facile dal punto di vista della Regione, ma lo Stato avrebbe dovuto già imporre all'Ilva di produrre acciaio in modo tale da non uccidere i tarantini. Questa cosa è possibile ed è probabile anche che sia dal punto di vista economico e in generale del marketing anche una cosa utile, perché bisognerà spiegare che ogni volta che una fabbrica trasferisce in un paese del cosiddetto terzo mondo una produzione, continuando ad avvelenare le popolazioni dove trasferisce la produzione, commette un crimine contro l'umanità, dal mio punto di vista. Voglio dire, Taranto, noi siccome fino a pochi anni fa eravamo evidentemente considerati il terzo mondo, questa lei l'ha mai vista l'Ilva? In foto. È la rappresentazione dell'inferno di Dante. E se lei ci va anche semplicemente da fuori, durante l'estate, la notte, lei sentirà degli odori che durante il giorno non si sentono, sentirà qualche cosa nell'aria che fa impressione, e tutto questo i tarantini lo soffrono da anni e anni e anni in casa loro. Ma per lei è stata sbagliata la decisione anni fa di privatizzare, per esempio? No, io non credo che sia stata sbagliata, comunque non sono in grado di giudicarla perché allora pensavo ad altro. Quel che è certo è che oggi ci sono le tecnologie per rendere anche le fabbriche più impattanti compatibili con il diritto alla salute degli italiani, e noi abbiamo il dovere di fare in modo che... E se questo non dovesse avvenire... Se questo non dovesse avvenire, noi non possiamo pagare con dati epidemiologici nella città di Taranto che sono 4 volte più gravi. Quindi andrebbe fermata. Se non... guardi, io non posso accettare che i miei figli e quelli che nascono a Taranto dovrebbero essere come i miei figli. Ha detto anche il ministro Clini, ha detto che non farebbe vivere i suoi nipoti lì. Senta Emiliano, un'altra cosa le voglio chiedere. Insomma, questa lista, adesso dovesse scommetterci su, da osservatore, visto che lei ha fatto quella proposta, ha mosso un po' di cose, però poi dice vediamo, da 0 a 100 che probabilità dà che nasca? Ma io se fossi in Bersani e Vendola la promuoverei senza dubbio. Perché ma non c'è nessuna ragione da realisticamente a parte per non promuoverla. Sì, a parte Bersani e Vendola, quello poi decideranno loro, ma lei come la vede? Ce l'ha fatta? Io non lo so come ragionano. Se loro hanno il problema di fare leggere le nomenclature, che ne so, se Vendola vuole fare il listone unico col PD solo per salvare una quarantina di suoi vecchi amici di Rifondazione Comunista, secondo me sbaglia, perché Vendola è un politico. Ho capito, questo l'ha già detto, ma molto più ampia. Se loro fanno così, voi non controproponete nulla, cioè finisce così. Bersani e Vendola decidono di non fare nulla e non si fanno. Non è che posso mettermi a fare il segretario di partito. E De Magistris la pensa come lei? Solito, no? Per quello che mi ricordo. Sì. Le campagne elettorali, quello che deve andare in giro a fare i comizi in tutti i paesini della Puglia sono io, perché non, purtroppo Bersani non avrà il tempo di farlo e Vendola forse neanche. Allora io li sto consigliando vivamente, vista l'esperienza che ho, di farsi dare una mano dai cittadini italiani che vogliono sostenere il centro-sinistra. Potrebbero anche aver voglia di candidarsi, ma non si candiderebbero mai sotto le insegne di un partito per mancanza di fiducia nei partiti e soprattutto perché la gente normale nei partiti viene triturata, quindi è difficile che possa farsi fregare di nuovo con la tecnica di essere candidata da indipendenti o con altri mezzi. Però ci sono anche molti altri metodi per far entrare la società civile all'interno delle liste del centro-sinistra. Stiamo ad attendere se i dirigenti dei nostri partiti hanno delle proposte alternative. Io devo rispondere di quello che faccio da sindaco, poi mi permetto di dare un suggerimento, se viene accolto bene, se non viene accolto lavorerò Va bene, insomma, Emiliano, grazie. Noi abbiamo capito. Io sintetizzerei così: Emiliano si defila dalla lista dei cittadini. E poi le cose non vanno bene. Sì. No, io non sono defilato da niente. No, perché, questo lo dico io, è la mia sintesi. Sono nato che pesavo 5 kg no. E da allora sono cresciuto. Sempre stato pronto a prendermi le mie responsabilità. Sempre più abbondante. Sia per vivere, sopravvivere, combattere la Sacra Corona Itala Magistrato, guidare la mia città per quello che ho potuto fare. Io non mi defilo da nulla, dico solo però che sarebbe pazzesco se per fare una cosa del genere, per aiutare il centro-sinistra, noi dovessimo litigare con Bersani e con Vendola. Vabbè, insomma, non litigate, dai. Sì, no, questo non litigate. Cioè, noi dovremmo aiutarli anche se loro non vogliono. Già litigate abbastanza nel Partito Democratico, se poi adesso litigate pure per una lista che non è ancora nata, questo sarebbe... Io lancio messaggi di pace. Se hanno voglia di farsi aiutare, noi siamo a disposizione. Se non hanno voglia, poi se le cose vanno male, non se la devono prendere con noi. Va bene, tutto grazie, qua. Grazie. Prego, Emiliano, buona serata. Allora io risintetizzo, Emiliano, due punti, la lista civica, io mi defilo. Questa potrebbe essere la mia personale sintesi. Cominciamo con i vostri interventi e abbiamo Francesco che ci chiama dalla provincia di Roma. Buonasera. Buonasera. Prego. Senta, io mi chiamo Francesco, mi chiamo da Montorotondo. Volevo fargli una domanda. La differenza tra doping e truccare un avvenimento calcistico o altro. Per esempio, no? Alex, carriera finita. Mentre i calciatori e allenatori, tra patteggiamenti e ultimo grado di giudizio, 3 mesi di stop. Beh, Alex, carriera finita un momento, perché bisogna vedere quanto sarà la squalifica. Altri atleti non del calcio, che non hanno truccato partite, ma che si sono dopati, hanno fatto un anno e mezzo, sì, sono tornati. Gli voglio dire una cosa, che il signor Briatore... No, non c'è differenza comunque, cioè quando uno trucca le regole... Ha aggiustato una gara, è stato radiato a vita. Sì. Mentre i calciatori, 3 mesi di stop e ricominciamo tutto da capo. Siamo ai tempi di Paolo Rossi, ai tempi di Lippi, ai tempi di Prandelli, diciamo, e siamo sempre qui, siamo sempre da capo a 12. Va bene, la Germania ha trattato male, insomma. La Beh, che c'entra, perché in Germania invece sono più severi su, non lo so. Però ha ragione sul fatto del calcio, sicuramente, ma anche nella stessa atletica o nel ciclismo non è che ci sia molta più severità. Lei ha citato un caso, ma Contador è tornato, cioè voglio dire, insomma, non è che negli altri sport ci sia molta più severità che nel calcio. C'è poca severità forse in generale, perché ci sono tanti interessi economici da tutte le parti, questa è la mia personale considerazione. Certo, però girano parecchi soldi, allora nel calcio sicuramente girano a livelli vertiginosi e quindi la conseguenza, vabbè, ma se uno sbaglia la può trarre, è finito, anche lei. Sì. È finito, no? Niente, se invece ricominciamo fra 10 anni, arriviamo da capo a 12, boh, facciamo passare sta bufera, appena si sistemano un po' le cose, si ricomincia. Io metto una alla schedina e quello fa scappare. Ma tanto c'ha già Schwarzer, c'ha già il posto come testimone all'antidoping, quindi non è che si deve preoccupare, perché finisce di correre e fa un altro lavoro. Sì, anche grazie. Lui passerà sta bufera pure per lui e poi si aggiusterà. Voleva aggiungere altro, Francesco? No. Va bene così, la ringrazio. La Zanzara. Pazza idea di far l'amore con lui, pensando di stare ancora insieme a te. Folle, folle, folle idea di averti qui, mentre chiudo gli occhi sono tua. Pazza idea, io che sorrido. Onorevole Fabio Granata, Futuro Libertà, buonasera. Buonasera. Come altro potevamo introdurre se non così la sua pazza idea di un'alleanza tra Futuro Libertà e l'Italia dei Valori? Una idea che ha fatto già il giro dei commenti dei giornali e ricevuto, devo dire, più critiche che altro. Sembra davvero una pazza idea. Lei però ha puntualizzato dicendo: beh, insomma, abbiamo dei tratti in comune. Adesso ci spiegherà. Conferma innanzitutto questa possibilità, questo tema politico. Ma il tema politico politica è legato alla nascita di Futuro Libertà. Noi rompiamo con il PDL non sui diritti civili né sulle nozze gay, rompiamo su questioni legate ai temi del contrasto alle mafie, alla legalità, sul pentito Spatuzza e sulla frase legata a Mangano. Quindi quando Fini 2 anni fa insieme a me andò a Via D'Amelio e sostanzialmente questa copertura che incredibilmente la destra italiana dava a tesi non di destra, perché la destra da sempre è legata appunto a legge e ordine, e indicò un percorso che poi è iniziato con la costituzione del gruppo parlamentare. Quindi noi nasciamo da Via D'Amelio, nasciamo per chiedere verità e giustizia su Paolo Borsellino, nasciamo con una componente legalitaria che poi nelle battaglie parlamentari dei mesi seguenti per bloccare le intercettazioni, cioè la modifica della possibilità delle intercettazioni, del processo breve, hanno caratterizzato la nostra presenza grazie a Giulio Bongiorno, ad Angela Napoli, a tutto il gruppo parlamentare. Questo è un tema importante e forte. La marginalizzazione che noi in questo momento subiamo è speculare una marginalizzazione che mi sembra subire l'Italia dei Valori e Di Pietro da quando si è aperta la polemica legata alle questioni delle intercettazioni del criminale. Stato mafia, sì. Però, scusi Granata, adesso questo lei poi se vuole proseguire. Voglio specificare, sì. Ma io devo specificare che comunque la mia intervista partiva da una valutazione sulla questione siciliana, dove si vota a ottobre, e dove dopo 15 anni di incidenti giudiziari, definiamoli così con un eufemismo, del Presidente della Regione, credo che questo tema debba essere demarcante nelle alleanze anche attraverso l'applicazione del codice etico. Da qui questo spunto. Lei si candida per queste elezioni tanto per così? Per... Guardi, io ho dato la mia disponibilità su una battaglia legata, ripeto in maniera chiara, ad alcuni temi programmatici, consumo zero del territorio, codice etico applicato alle liste, quindi rinviate a giudizio non in lista, sviluppo sostenibile, identità culturale da rilanciare, tutti temi che certamente sono indigesti a certo centrodestra e a certo centrosinistra. Quindi se si crea un'area di modernizzazione della Sicilia, ma legata alle proprie radici e soprattutto legata alle battaglie che 20 anni fa hanno portato ai sacrifici che sappiamo, la mia disponibilità è in campo, ma non è una disponibilità legata in maniera, come dire, ferma al personalismo. Ma con chi state valutando anche la possibilità di un'alleanza Futuro Libertà, almeno per le elezioni siciliane, oppure in partenza partite così, da soli? Allora, partiamo da un presupposto. L'area che ha fatto riferimento al Presidente Lombardo è in questo momento rappresentata da Massimo Russo. Massimo Russo è stato autore di una coraggiosissima riforma della sanità, ma in quest'area di Anger, la figlia di Rocco Chinnici, vi sono esempi importanti di attaccamento a determinati valori. Lombardo è il primo uomo politico italiano che si dimette da un incarico importante prima ancora di essere inviato a giudizio, e il suo partito sarà totalmente rifondato. Quindi da quest'area ripartiamo. Ma è un'area, ripeto, rinnovata nei personaggi, nei nomi. Parlo di Massimo Russo, parlo di Caterina Chinnici, parlo di tanti uomini e donne che sono legati a una certa idea della Sicilia. Quindi si parte da quest'area. E io credo che in Sicilia, per rompere con un bipolarismo che ha fallito, con un centrodestra impresentabile per motivi che sono ovvi, e con un centrosinistra che si attarda a inseguire un'ipotesi legata a un'alleanza con l'UDC che lì non rappresenterebbe nessun tratto di innovazione, noi crediamo che ci sia una grande area, non di centro, ecco questo è il tema, non di centro, ma innovativa e di cambiamento, che si può realizzare tra Futuro e Libertà, Nuovo Polo. E se riterranno la politica siciliana è complicatissima, non vogliamo certo spiegarla adesso perché ci sono annessi e connessi difficili da spiegare in due parole. Però a parte questo, è una regione molto speciale. Sì, una regione speciale con una politica ancora più speciale, perché però io le volevo chiedere un'altra cosa. Invece lei ha invitato Fini a fare un passo, a scendere in campo, a farsi sentire. Fini, che qualche tempo fa ha detto si ventilano miei possibili ruoli in Europa, ma io non sono interessato perché voglio fare politica in Italia. Fini però che non si sente più. Che fine ha fatto Fini? Guardi, Fini con un grande senso di responsabilità ha fatto, e lo ha fatto benissimo, il Presidente della Camera. Adesso da settembre si apre una fase diversa nella quale un partito come il nostro, nato dalla rottura del PDL, è su un manifesto per l'Italia, che è un manifesto di profonda innovazione che supera le categorie politiche, ma comunque un movimento che nasce da una nuova destra, come noi amiamo chiamarla, Lega d'Italia, repubblicana, costituzionale ed europea, attenta ai diritti civili. È difficile da far radicare senza il tratto di un leader che ne configuri l'identità. Appunto, quindi però... questo partito senza un leader in campo che sul piano della comunicazione riesce a comunicare un'identità assolutamente innovativa come quella appunto di FLI, ha avuto questa deriva anche nei sondaggi che era abbastanza logica, aggravata da una questione. Però Fini è rimasto un po' spiazzato forse dalle mosse di Casini che si è alleato. Senz'altro sì, perché abbiamo delegato a Casini, dal rappresentante del terzo polo, anche al tavolo della maggioranza, e siamo invece diventati invisibili, abbiamo subito un processo di marginalizzazione continua. Sostanzialmente siamo in maggioranza avendone tutti gli aspetti negativi, ma senza partecipare attivamente a alcuna scelta del governo. Ecco, tra l'altro è questo che, mi scusi Granata, che non capisco, perché lei dice che c'è un tratto comune con l'IDV e l'ha spiegato, però dal punto di vista del sostegno al governo Monti voi siete sulla linea della responsabilità e invece l'IDV no, quindi un'alleanza sarebbe davvero complicata. Guardi, non è che il governo Monti, guarda, io dico questo, su questo ci sono sensibilità diverse, ma non è che il governo Monti è diventata la tavola in questo momento, però è una pietra angolare. Sì. Certo, noi siamo convinti del senso di responsabilità che dobbiamo avere rispetto ad alcune misure, alcune misure economiche, però siamo altrettanto convinti che bisogna reindirizzare attraverso scelte politiche in direzione di una maggiore equità sociale di queste scelte. Quindi anche l'equità sociale potrebbe essere un tratto. Ma qualcuno, mi tolga una curiosità, nell'Italia dei Valori, hai avuto contatti con qualche esponente, vi siete parlati? Cioè questa ipotesi che è filosofia politica personale, ma io ho un rapporto diretto personale di amicizia con Di Pietro, non lo sta a nascondere, abbiamo discusso spesso e posso Di Pietro dire che tra l'altro veniva dalla destra, insomma, dai, diciamolo. Ma non è una grande sorpresa. Di Pietro, infatti, la follia del sistema italiano è che alcuni temi che sono interpretati in questo momento come ragione sociale principale dall'IDV e da Di Pietro sono temi tipicamente di destra, ma Di Pietro non è un uomo di sinistra, cioè Di Pietro è un uomo che in qualsiasi paese, diciamo così, con una dinamica di rappresentanza normale starebbe nella destra politica. Quindi il tema vero è questa aria che ha rotto il berlusconismo, ma che ha dei requisiti culturali, un retroterra culturale legato a una certa idea dell'Italia, quindi al patriottismo repubblicano. Senta, all'identità culturale. Sì, sì, no, questo l'ha espresso chiaramente. Ma facendo un gioco della proprietà transitiva, visto che Futuro e Libertà, diciamo, corteggia l'Italia dei Valori, l'Italia dei Valori corteggia Grillo. Si può dire che anche Futuro Libertà può essere interessata a corteggiare Grillo in qualche modo o ha una vicinanza politica con Grillo? Assolutamente no, perché Futuro Libertà innanzitutto non corteggia l'Italia dei Valori. Futuro Libertà nella mia persona, usato questa espressione così per sintetizzare, dalla Sicilia, sì. Ecco, di lanciare alcuni temi di interesse comune che... Vabbè, ma al di là delle definizioni, Granata, c'è una affinità politica, lei dice, no? Il tema della legalità non è un tema qualsiasi, è un tema che incide anche sul disavanzo pubblico, perché abbiamo 280 miliardi di euro drenati dalle mafie e più di 100 dalla corruzione. Ma insomma, lei dice... Grillo rappresenta non una possibile opzione politica, perché Grillo è assolutamente la negazione di ciò che per noi è la politica. La politica per noi resta partecipazione attiva al perimetro pubblico, all'interesse comune, al bene pubblico. Criticare non è creare un atto politico, perché la politica deve costruire un progetto. Vabbè, Grillo però si basa su tutti i movimenti, sappiamo benissimo, una rete fittissima, e quindi a livello di partecipazione, a parte le sue sparate, state, non gli si può dire nulla da questo punto di vista. Cioè la partecipazione, sì, c'è. La partecipazione, guardi, la partecipazione deve avvenire su progetti, sì, consapevoli. Cioè la partecipazione significa declinare delle proposte per la società. Ma per italiana. Esempio, per esempio, credo... scusi, faccio questo esempio. Ho detto, beh, prima, ho citato l'ordinanza di Alemanno sul divieto di consumo di alcolici fuori dai locali pubblici dopo le 23. A Parma, sappiamo, qualche giorno prima Pizzarotti ha attuato questa che è stata definita una svolta proibizionista, anche in questo caso sul tema della legalità. Potrebbe essere un tema simile al vostro, cioè una sensibilità simile alla vostra, divieto quelle del consumo di alcolici dopo le 23. Questo però potrebbe essere un atteggiamento, no, anche per voi. Cioè lei un'ordinanza del genere la voterebbe, quella di Parma, dico. Guardi, sì, la voterei, ma senza farla diventare un'ossessione. I problemi di Roma sono legati soprattutto alla quinta mafia, all'infiltrazione mafiosa nei gangli dell'economia romana, non soltanto ai ragazzi che fanno schiamazzi fuori dal locale. Ciò che manca alla destra tradizionale, quella di Alemanno e quella del PDL, è che molto spesso fanno finta di vedere come dire la scheggia, ma non vedono la trave. A Roma il problema vero è che gli esercizi pubblici sono tutti in mano alla Camorra e all'Ndrangheta, come è risaputo. È un vero contrasto alle mafie che invadono l'economia della capitale, non viene attuato, invece si pensa alle prostitute e agli schiamazzi davanti ai locali. Ora, per le misure di ordine pubblico, cioè la sicurezza è un tema certamente di destra, ma la legalità è un tema che è precondizione della politica, è un tema che dovrebbe appartenere a una nuova destra europea come la nostra, ma è un tema che accomuna in questa sensibilità alcune forze politiche. Cioè non si può da una parte, guardi, le faccio un esempio, sì, molto evidente. Alemanno e altri esponenti della destra italiana vengono quasi sempre a sfilare il 19 luglio in una fiaccolata che inaugurai io all'epoca leader della destra insieme ad Alemanno Giovanili a Palermo per Paolo. Che fiaccolata? Ah sì, certo, 19 luglio. Sì, ma non si può sfilare per Paolo Borsellino e poi in Consiglio dei Ministri, ad esempio la Meloni che ha capeggiato quella sfilata, sì, votare opposto allo scioglimento per infiltrazione mafiosa al comune di Fonti. Faccio un esempio. È chiaro. La legalità, senta, è consapevolezza e scelte. Un'altra cosa, su questa sua diciamo svolta di vicinanza rispetto all'Italia dei Valori, o quantomeno la manifestazione di questa vicinanza, che ci poteva essere anche in passato, ma lei ha espresso chiaramente la sua amicizia con Di Pietro, eccetera. Lei con Fini ne ha parlato di questo? È consapevole e conosce perfettamente quali sono le mie idee e quali sono i rapporti. Anche tra Fini e Di Pietro c'è un rapporto di stima reciproca. Io credo che all'interno è chiaro che non tutti hanno questo tipo di sensibilità, ma noi dobbiamo deciderci cosa fare. Se qualcuno pensa che si può ricomporre un'area di nuova destra europea, legalitaria e repubblicana appiattendosi sulle posizioni di Casini e magari entrando nell'UDC è totalmente scontato. Ma Fini poi cosa le ha detto in concreto? Ha detto la sua? Fini non ha assolutamente questa intenzione. Fini da settembre, noi abbiamo già programmato un'importante manifestazione, la cosiddetta manifestazione dei 1000, con 1000 soggetti esterni della società civile, e io credo che in prospettiva la soluzione, poi si dovrà vedere ovviamente la legge elettorale, ma una prospettiva possibile è quella della creazione di una lista Fini, con Fini che si carica sulle spalle la responsabilità da leader del percorso che ha avviato, che si candida a premier per rappresentare questa certa idea dell'Italia. Certo non da una posizione vincente. Quindi ma la sua, insomma, era più che altro una provocazione per tirar fuori un po' anche Fini dall'angolo. Insomma, dice o Fini scende in campo, chiaramente, come fra l'altro ha promesso di fare, con una lista sua, oppure lei dice possiamo fare qualunque cosa, compreso l'alleanza con l'Italia dei Valori. Grazie. È questo, no, Granato? Ho sintetizzato. Sì. Però non è una scelta generica o né generalista. Fini, con quel dito puntato alla direzione del PDL, per, sì, la prima volta nella storia repubblicana ha portato una componente politica fuori da un governo e siamo passati dalla maggioranza all'opposizione. Vabbè, questo è passato recente, ma lo conosciamo, questo, sì. No, è successo di solito il contrario in Italia. E se il berlusconismo come fase politica di governo si è chiuso, qualcosa a noi, come dire, il sistema politico italiano lo deve. Ora, verso fine c'è stata una ingenerosità assoluta, sia da parte della sinistra, sia da parte di Casini, che ha iniziato un percorso e poi, ha ritenuto di utilizzarlo per far crescere l'UDC, quindi si parlava di terzo polo ma era rappresentato l'UDC. Noi come Futura Libertà diciamo basta a questa dinamica, scendiamo in campo con le nostre idee, i nostri progetti, abbiamo un grande leader che è Fini e poi Bellissimo. Credo che sui fatti concreti come quello legato alla Sicilia, un tema di apertura su temi demarcanti come quelli della legalità possono anche vederci in alleanze inedite. Questa è un po' la sintesi. Va bene, grazie Fabio Granata, buona serata. Grazie. Giuseppe che chiama da Catania, buonasera. Senti, prego. Io ritengo di trovarmi in Grecia, qui siamo nella Magna Grecia. La Sicilia mi rappresenta una propaggine della situazione critica della Grecia. Della Grecia. No, sì, vabbè. Questa è una bella battuta, sì. Sì, noi siamo la Magna Grecia, però siamo ridotti. Cioè la vecchia Grecia, ma anche la nuova. Cioè avete il bello della vecchia Grecia, ma anche... Sì. A livello della piccola Grecia. Ho sentito la bella conversazione con Lupi. Sì. Lupi ignora completamente la situazione degli italiani, non sa che qui c'è gente che sono centinaia e centinaia di persone che vanno a consumare un pasto regalato dalla Caritas e dalle altre associazioni e da noi pochi volontari praticamente. Che andiamo. Lei fa il volontario? Andiamo nei bar, chiediamo le brioche che sono rimaste, chiediamo le paste al forno che sono rimaste e le distribuiamo alle persone che sono ridotti allo stremo. Sì, lei fa sono gli italiani che non stanno soffrendo minimamente questa crisi. Non bisognerebbe colpire loro, perché già quelli che dovevano essere colpiti sono già stati, come dire, messi a terra, sono tutti KO. Quindi chi... Esodati, precari. La Sicilia è ridotta come se fosse una terremotata senza terremoto. Scusi però noi sappiamo che l'Italia è il paese dei risparmiatori, no? Per fortuna. Sì. Quindi insomma da qualche parte qualcuno avrà risparmiato qualcosa, insomma. Ma vedevo se c'è da pagare il conto di un indebitamento collettivo, e chi lo deve pagare? Nessuno secondo lei? No, lo dobbiamo pagare tutti, dobbiamo pagare. Ma chi sono quelli che non la soffrono questa crisi? I magistrati, me lo dica lei. Gli onorevoli, i farmacisti, tutte le altre lobby, i bancari, questi non la stanno soffrendo la crisi perché se ne vanno in vacanza, se ne vanno a scialacquare i soldi che ce l'hanno in abbondanza. Sì. E quindi per loro la crisi non esiste, esiste soltanto per i poveracci che sono... Perlomeno, voglio fare una percentuale, il 85-90% degli italiani. E quindi lei, la sua conclusione di tutto questo qual è? Gli italiani che se ne impipano della crisi e fanno i discorsi belli alla radio oppure nei talk show. Giuseppe, ma la sua conclusione qual è di tutto questo ragionamento? Cosa si può fare? Che su queste persone che non stanno subendo la crisi e anzi addirittura la cavalcano, bisognerebbe che ci fosse un'attenzione maggiore, fare pagare loro quello stesso, riduzione per esempio dello stipendio dei magistrati, prendono 7.000-8.000 euro, perché devono prendere 7.000 quando c'è pensioni di 300 euro? Pagate 4.000 euro, 3.000 euro, ma fatelo sentire che c'è un contributo da parte di queste persone. Sì, 7.000 euro di 3 anni fa sono diventati 8.000 euro ora. Lei ce l'ha con i magistrati in particolare? No, con i magistrati, con tutti quelli con che tutti. Hanno gli incrementi di trattamenti automatici. Ma per esempio posso dare una buona notizia, ammesso che poi è una fatta la legge, si dice, è trovato l'inganno, però oggi è stata votata una legge che prevede, adesso se lo trovo, la riduzione del 20% dei dirigenti pubblici e il tetto, anche se è altissimo, però insomma è pur sempre un tetto, a 300.000 euro per gli stipendi dei manager e dirigenti delle aziende statali, che guadagnano in molti casi anche molto di più. È un passo o no? Lei è soddisfatto per questo, Giuseppe, o no? Sono provvedimenti che vanno presi in ogni caso. Sono stati fatti, sì. Quello che dico io. No, ma le chiedo, questo la rende un po' meno amaro nelle sue considerazioni oppure no? Come? No, dico, questa cosa che è stata approvata oggi, il tetto per esempio agli stipendi dei manager, va nella mia direzione. È un po' più soddisfatto o no? Ma è troppo, va nella mia direzione. Però dico, ma lei quindi si sente un po' sollevato, un pochino? No. Io dico che tutti dovrebbero essere, come dire, guardati nella loro obiettività economica. Però anche voi, ascoltate, anche lei, Giuseppe, dovrebbe guardare tra le cose che si fanno quando ci sono delle cose che vanno nella direzione auspicata e applaudire una volta e dire: ah, finalmente, ammesso che questo provvedimento le piaccia. Però da quello che diceva, io penso di sì. Quindi bisogna anche vederle le cose che ci sono, se no stiamo qui a parlarci e piangerci addosso e basta. Giuseppe, tanti saluti dalla Magna Grecia. Saluti da Milano, stavo per dire dalla Padania, ma non ci credo, quindi sì, da Milano. Sì, io dalla Magna Grecia lo dico, per ora siamo la propaggine della Grecia in Sicilia. Sì, voi siete messi un po' maluccio politicamente parlando, ma questa è la politica e noi alla politica la dobbiamo la dobbiamo censire, la dobbiamo punire, la dobbiamo sindacare. Per il resto... Lei ci va a votare alle prossime elezioni, Sicilia? È una regione ricca, una regione di gente per bene che vorrebbe lavorare e vorrebbe vivere senza essere presi per i fondelli, né da Roma e nemmeno dalla Padania. E nemmeno da Palermo, grado, però, perché siete una regione dove c'è una miriade di dipendenti pubblici, per esempio. Anche questo non va mica bene, dipendenti regionali. Saremo in grado di risorgere e di dare linfa vitale all'Italia, noi siciliani. Senta, ma ci va a votare alle prossime elezioni regionali? Sicuramente. Ma no, io ho votato sempre per le persone che non sono state elette, praticamente. Lei perde sempre. La mia disgrazia è che non ho avuto eletto mai un rappresentante che la ragiona come me. Lei è in minoranza? Sì, in minoranza assoluta. Insomma, questo mi dispiace, perché dovrebbe cambiare regione, forse. No, e andare dove vince. Se lei venisse in Sicilia, ho avuto due romani ospiti a casa mia, perché mio figlio, fortunatamente per me, è un ragazzo molto socievole e molto solidale, con che ha ospitato a sue spese due ragazze di Roma e se ne sono andati incantati dalla Sicilia. Forse lei ci sarà venuto, ma questo incanto non l'ho mai potuto sperimentare. Come? Perché, scusi, perché deve dire così? Lei è pessimista di natura, cioè secondo lei sono venuto in Sicilia ma non ho potuto ammirare l'incanto, invece sono venuto e ho ammirato l'incanto. Siccome ammirare la Sicilia, ammirare le sue bellezze, significa constatarne la sua potenzialità di ricchezze e di sviluppo, bisogna proiettare le politiche proprio a questo obiettivo. Va bene, Giuseppe, visto che lei dice che è sempre in minoranza, che perde sempre le elezioni, io le ho consigliato di cambiare regione. Facciamoli sentire Francesco Guccini, che alla presentazione del suo libro ha detto che si vuole dimettere da italiano perché dice tanto alle prossime elezioni rivincerà Berlusconi, che lui chiaramente non vota. Guccini. E Berlusconi, naturalmente, il quale dirà che abolirà l'IMU, Equitalia, le tasse e tutto, e vincerà a mani piene, perché gli italiani sono fatti così. Io a questo punto mi dimetto da italiano e buonanotte. Tra l'altro, Giuseppe, ancora in linea? Sì, la prego, io sono a disposizione. Perché lei ha detto che ha sempre perso alle elezioni, ma per esempio a Catania, se non ricordo male, è stata amministrata prima da Enzo Bianco, poi da Scapagnini. Enzo Bianco ha cercato di fare qualche cosa. E poi però, Scapagnini centrodestra, quindi lei... Siccome la natura dei siciliani è stata sempre quella dell'appoggiarsi a delle convenienze, Enzo Bianco ha potuto fare limitatamente quello che ha fatto, perché aveva dei buoni propositi, aveva creato un albero delle idee, dove io andavo a depositare le idee che raccoglievo tra i cittadini, tra i poveracci, tra quelli che dormono sotto gli archi della Marina, che sarebbero gli archi che sostengono la linea ferroviaria praticamente, sì. Lì, perché prima lì ci passava il mare sotto gli archi. E allora queste persone mi davano delle idee, li abbiamo segnalati, li abbiamo sottoscritti in questo albero delle idee, però purtroppo sono rimaste. Ma lei fa il volontario, ho capito bene, va a distribuire i pasti ai poveri? No, io aiuto gli ammalati, e quelli che hanno bisogno e che sono abbandonati dai parenti e dai figli e dalla assistenza pubblica. Cos'è, un'associazione della Chiesa o un'associazione laica? Di che cosa si tratta? No, io sono un volontario, come dire, outsider praticamente. Outsider. Dove c'è il bisogno, dove c'è, cioè, il lei bisogno. Gioca da solo, non è che sta in un'associazione. No, ma io ho tanti amici. Sì. Ma senza associazione, siamo degli amici che agiamo, che si danno da fare, perché andiamo a colpire nel segno, capisce? Se lei vede una persona che dorme nella scalinata di una chiesa, io non devo aspettare le istituzioni o l'associazione, ci vado io a cercarla. Bravo Giuseppe, lei è un ascoltatore, grazie, strepitoso, ce ne vorrebbero tutte le sere di persone per dialogare così come lei. Grazie Giuseppe da Catania. Un altro ascoltatore, Roberto da Treviso, buonasera. Buonasera. Prego. Mi sente? Noi la sentiamo, sì, abbastanza bene. Buonasera. Sì. Ecco, io non mi accodo al sentimento antitedesco, francamente, anche perché non mi spiego per quale motivo i tedeschi dovrebbero cavarsi le castagne dal fuoco. Non mi spiego, per esempio, perché i tedeschi dovrebbero contribuire a pagare 20.000 impiegati assunti dalla regione Sicilia, per esempio. Non me lo spiego. Non mi spiego perché dovrebbero contribuire a pagare le pensioni ai baby pensionati. Non me lo spiego. Tutte domande retoriche. Quindi, conclusione? Conclusione, i tedeschi fanno la loro parte, i loro interessi. Siamo noi che dobbiamo cavarci le castagne dal fuoco, magari uscendo dall'euro. Cioè lei auspica un'uscita dell'Italia dall'euro? Assolutamente. Assolutamente, l'euro per noi è stata una catastrofe. È stata una vittoria straordinaria per i tedeschi che ci hanno imposto la loro moneta. Noi come dei pazzi siamo entrati in questo sistema e oggi paghiamo le conseguenze. Noi possiamo veramente cavarcela da soli se ritorniamo alla nostra moneta. Vabbè, insomma, un'opinione che c'è, se ne parla. L'ha detto Berlusconi, l'ha detto Grillo, l'hanno detto in tanti, l'ha detto anche lei. Grazie Roberto. E ora ci fermiamo per le notizie e ci sentiamo più tardi. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo La Zanzara. Sentiamo da Lecco, dalla provincia, Emanuela, buonasera. Buonasera. Senta, mi dispiace che sia andato appena Tosi, perché le volevo dare una notizia in diretta. Sì. Nel senso che il sindaco di Merate, Robbiani, mi sembra che si chiama, che si era scagliato contro l'IMU, poi ha applicato la tassa più alta. Cioè il sindaco della Lega, attenzione, che si era scagliato contro l'IMU, l'ha applicato a Merate, all'IMU, la prima rata, l'aliquota più alta. Più alta. Ma non credo che sia l'unico, perché poi quando si parla di far cassa i comuni ne hanno bisogno, questo non c'è niente da fare. Come dire, prima però avevano detto in un modo, lei dice, poi hanno fatto in un altro. Vabbè, comunque. Ma lei è un'elettrice leghista? No. Per amor di... No. Scusi, però no, assolutamente. No, poi... no, però... Come Dio ce ne scampi, sembrava che volesse dire. Territorio. Senta, io sono abbastanza, come dire, a me dispiace, sono quasi, mi vergogno quasi per lui, ma secondo me sta male Di Pietro. Cioè, lui si appella, allora, un magistrato che dovrebbe sapere il diritto, non so come dire, in punta di matita, non so come si dice. In punta di diritto. In punta di diritto, ecco. Va a tirare fuori un'insinuazione di un indagato che tirerebbe fuori l'anima per difendersi e la dà per certo. Allora, delle due una. Se Di Pietro ha delle prove di questa cosa, lo dica. No. E poi cioè sulla perché... questione di Napolitano e dei finanziamenti al PC. Esatto. Scusi, cioè, sì. Sì. Altrimenti, come dire, altrimenti deve dire del perché non l'ha detto fino ad ora. Ecco. un'altra cosa, se mi è consentita, perché veramente sto inanellando una serie di indignazioni quotidiane. Ma si indigni, noi siamo qua anche per questo. Oh, sento dire questi della Cassa della Libertà, tutti quanti, insomma, per la dignità del Parlamento, quasi calpesta la dignità del Parlamento. Ma signore, questi qui hanno votato che Ruby era la nipote di Mubarak, hanno votato per il processo breve, stanno tenendo ferma la legge sulla corruzione. Ma guardi, al di là di Ruby, sulla questione delle fiducie, per esempio, che scandalizzano sempre chi sta all'opposizione, in realtà poi quando le stesse forze politiche stanno al governo, la fiducia è un fatto che viene utilizzato. Poi certo, si può stare a contare se sono state tante o poche, però questo è veramente teatrino della politica, da parte di chi adesso si lamenta della fiducia, un po' come anche Crosetto ieri sera del PDL, che però quando c'era Berlusconi al governo di fiducia ne hanno votate a iosa. Questo mi dispiace, ma non c'è niente da dire. Manuela, prego, so se voleva concludere. Sì. No, sto qui. Un'altra indignazione, un'altro vuole inanellare qualcos'altro o ha finito? No, va bene, per ora. La questione del cartello di Lecco, lei l'aveva notata? No, io ho notato, a Lecco non l'ho notato, perché Melati è abbastanza, però Osna, su questo Osna, Calolzio Corte, anziché Calolzio, adesso non so come si pronuncia, perché non sono da queste parti, sì, c'è tutta questa robbia, sì. Per robbiate, sì, tutte queste robe, tutte abbreviazioni così. E qua continuano ancora perché siamo in regno leghista. Mm. No, ma a Lecco hanno cambiato il cartello da quando è cambiata l'amministrazione? Non sono passata, non l'ho visto. E hanno tolto Lecco. Credo che sia il sindaco Virginio Brivio, credo che abbia tolto la scritta. Vabbè, comunque, grazie. Se c'è qualche altro ascoltatore di Lecco che ce lo può confermare. Buona serata, Emanuela. Maurizio Grassano, deputato del gruppo Misto. Buonasera. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Eccoci qua. Allora, l'Unità ha fatto il conto dei deputati, estate, quindi insomma si fa un po' il punto di una serie di vicende, il conto di tutti i deputati, gli onorevoli transfughi che passano da un gruppo all'altro. Lei è uno di quelli che ha la lista più lunga, Grassano, sa? Perché... Davvero? Dunque... Mi sa che l'hanno mani informata. No, allora aspetti, io perché ho la lista più lunga, l'hanno mani informata. No, ho detto è uno di quelli che ha la lista più lunga. Forse che ce l'ha più lunga, vada occhio, è Nucara, Francesco Nucara, che è anche lui del gruppo Misto, e poi di deputati che hanno passato il gruppo ce ne sono una marea. E ha ragione, ce ne sono 47. No, allora, niente, il passaggio è dal... Lei è stato eletto con la Lega? No, io sono stato eletto con la Lega, ma non sono mai... Cioè, scusi, lei è arrivato, subito... è subentrato io a quota. Però io sono entrato subito nel gruppo Misto, quindi non sono mai entrato nel gruppo della Lega. Cioè lei quindi la Lega non conta. Cioè lei nel momento in cui è subentrato a quota aveva già rotto con la Lega. Misto. Esatto, quindi sono entrato subito nel gruppo Misto. Cioè lei in un anno di attesa, che però era stato candidato con la Lega, quindi eleggibile con la Lega, non è stato eletto perché era il primo non eletto, Cota è andato alla regione Piemonte, nel frattempo lei ha rotto con la Lega, come mai? Che cosa era successo? Motivi personali, non mi sembrava più che mi rappresentasse, non c'erano più i presupposti di fiducia. Eravamo nel 2010. Giugno 2010 sono entrato. Quindi gruppo Misto, poi Misto Liberal Democratici. Poi dal gruppo Misto, sono sempre stato nel gruppo Misto, sono entrato in una componente del gruppo Misto che erano i Liberali Democratici. Con Guzzanti forse? No, Liberali Democratici era Contanoni, ok. Sì. Poi Popolo e Territori. Anche lui faceva nel gruppo Misto. Ecco, poi questo è stato il primo passaggio, il primo vero passaggio dal gruppo Scilipoti. Misto a Popolo e Territorio. Con Scilipoti. Ma sì, no, ma non era Scilipoti il mentore di Popolo e Territorio, no, il capogruppo erano altri. Chi era il capogruppo? Il capogruppo attualmente Moffa, Silvano Moffa. Moffa. E poi dunque, aspetti, finiamo, Misto Iniziativa Liberale, no, Misto Iniziativa, cioè è tornato al Misto, ha lasciato quindi il gruppo Popolo e Territorio, e poi nella nuova componente Iniziativa Liberale. Vuole contare i passaggi?

era l'1,2% di tutti i votanti. Io 600 però non bastano per essere eletto in Parlamento, sono un po' poche. Sì, però certo, capisco che lei rivendichi il suo passato. Ma per quale partito è stato? Era... Per la Lega. Io non ho mai cambiato nessun partito, io sono entrato in Lega, dopodiché sono uscito dal Lega e sono andato nel PDL, basta, non ho fatto nessun altro passaggio. Ma perché lei fa parte del PDL però non è iscritto al gruppo del PDL? Ma perché io sono entrato nel misto e non mi sembrava giusto entrare nel gruppo del PDL, sono entrato nel misto e sono rimasto nel misto. Ce n'è di strada da fare, non lo so. Grassano, vuole aggiungere qualcosa? Vuole fare qualche appello ai suoi concittadini di Alessandria? Vuole tornare a fare il consigliere comunale? L'unico appello che vorrei fare è questo, e glielo rinnovo: facciamo cambio di stipendio tra me e lei. Va bene, Grassano, se questo le piace, faccio un appello personale. Se accetta, io sono qui. Noi se possiamo aiutarla, perché appunto, ripeto, avendo visto il titolo dell'intervista sul fatto se qualcuno non mi ricandida muoio di fame, ci siamo preoccupati, l'abbiamo chiamata. Poi ci ha spiegato che c'è la Caritas e va bene. Grazie Grassano, buona serata. Che grazie dire? A lei e a tutti gli ascoltatori. Finché la barca va, lasciala andare. Finché la barca va, tu non remare. Finché la barca va, stai a guardare. Buonasera Flavio Tosi, sindaco di Verona. Sì, buonasera a voi. Lei lo sapeva che Maroni non ha pagato questi ormeggi della sua barca a Villa Puzzu in Sardegna? Si parla di poche migliaia di euro, per l'amor del cielo, però c'è una piccola querelle con questo comune sardo. Ma a me risulta che quello che gli è stato chiesto di pagare, lui l'ha pagato, trattandosi di una pubblica amministrazione. Se una pubblica amministrazione non richiede quello che è dovuto, è colpa della pubblica amministrazione, non del destinatario. Sì, perché era considerato Maroni un ospite illustre che quindi non doveva pagare l'ormeggio, alcune migliaia di euro. Ma secondo lei è giusto che un politico venga considerato un ospite illustre e non paghi un canone di quel tipo? Allora, il punto è che l'oggetto della questione non è Maroni, ma il precedente sindaco di questo comune. È sbagliato che chiunque venga esentato in qualsiasi modo dal pagamento del dovuto, però ripeto, è una valutazione che spetta e quindi casomai confronto che va fatto col precedente sindaco. Maroni non c'entra nulla. Lei dice che Maroni non poteva immaginare che qualcosa era dovuto. Insomma, uno che ha una barca lo sa che qualcosa deve pagare, quindi immagino che Maroni sapeva che le pubbliche amministrazioni mandano da pagare conti anche molto in ritardo. Non è la prima volta, arrivano anche bollette dopo anni, quindi non sarebbe un fatto allarmante. Cioè lei scagiona Maroni e dice... Io i pagamenti. Non è che mi metto a guardare tutto quello che mi arriva, io quello che mi arriva da pagare pago, poi non è che vado a guardare se tutto quello che è dovuto mi viene richiesto, io pago quello che mi deve essere, poi se una pubblica amministrazione non mi richiede, ripeto, è omissiva, è colpevole. Non mi convince molto, a parte la questione, ripeto, è una questione dal mio punto di vista minuscola, perché si parla di alcune migliaia di euro e poi sicuramente molti tra virgolette personaggi illustri sono abituati ad avere trattamenti di favore e forse non c'è nulla di male, è una libera scelta da parte dei comuni, però che Maroni non sapesse che doveva pagare l'affitto del molo, questo mi sembra... Se gli arriva una fattura anziché un'altra, se lui sarà abituato, non sono abituato io come tanti altri, quando ti arriva una cosa da pagare la paghi. Punto. Sì, però io non ho la barca, ma se avessi la barca, come lo so, avendo la macchina, che se parcheggio sulle strisce blu devo pagare. Maroni ha una barca, lo sapeva che doveva pagare qualcosa. Sì, quindi, se la pubblica amministrazione non gli manda il dovuto, non è che uno a fartelo pagare, ti dovrebbe mandare a casa qualcosa da pagare. Se non lo fa, io ripeto, a me arriva l'assicurazione della macchina, il bollo della macchina, arriva il gas, la luce, l'acqua e tante altre cose da pagare. Quando mi arrivano pago. Non è che sto lì a vedere se mi è arrivato un trimestre o anziché se mi è arrivato a pagare un'altra cosa. Tre anni. Pagare pago, perché immagino che chi abbia qualcosa da pretendere me lo chieda, vero? Sì, sì, no, è chiaro il suo punto di vista. Il suo punto di vista è chiaro. Sono 3 anni, credo, nonostante concordo con lei sul fatto che Maroni è quello che ha beneficiato di questa cosa, pur non avendola forse neanche chiesta, anzi sicuramente non l'avrà chiesta, però ecco, sul fatto che lui non sapesse che doveva pagare 3 anni mi sembra una dimenticanza, un'amnesia un po' grave. Le cose che ti arrivano da pagare, sì. Non è che stai lì a guardare se ti arriva questo o quell'altro stato, ma quando Maria una cosa da pagare la pago, punto. Sì. E immagino che quando uno qualcosa da pretendere me lo mandi. Ma io per esempio non ho pagato per un paio d'anni la TARSU, la tassa sui rifiuti, e mi sono preoccupato perché dicevo ma adesso mi arriverà una pisola da pagare, perché non avendola pagata per un anno o due per ritardi del Comune di Milano, e infatti sono andato all'ufficio, ho chiesto e alla fine pensi ho dovuto riaprire la pratica perché si erano dimenticati, potevo tranquillamente non pagarla, però sa com'è con Equitalia e dintorni, non si scherza, e ho preferito anticipare perché sennò poi mi arrivava la superpisola. Questo credo che sia come ragiona il cittadino comune, normale. Forse però il politico ragiona diversamente. Se a me non arrivasse la bolletta dei rifiuti, io non è che tutti gli anni sto a guardare se mi arriva, mi è arrivata sempre l'ho pagata. Non è che sto a guardare se mi arriva. Ragioniamo diversamente io e lei, ma non c'è nulla di male. Ma sa quante cose mi arrivano da pagare? Io probabilmente lei non paga niente, è fortunato. No, le ho appena detto che mi sono preoccupato di pagare perché le pago le tasse come tutti, ovviamente. Quando mi arriva un casino di roba, quando arriva una cosa da pagare la pago, ma non è che vado a guardare la disamina e dire mi è arrivata la bolletta di luce, mi è arrivata la bolletta del gas, mi è arrivata la bolletta. No, beh, certo, ma infatti immagino che mi arrivi. Si tratta, nel mio caso si è trattato di un eccesso di scrupolo. Credo che nel caso di Maroni si è trattato, diciamo così, di una amnesia triennale. Si è trattato di un'omissione della pubblica amministrazione più che dell'amnesia di Maroni. Sì, però via, lo sappiamo che è normale il politico che non paga il conto al ristorante o altre cose. Ma ripeto, non ci sarebbe niente di male. Non è tanto normale che il politico non paghi il conto. Beh, se glielo offre, se c'è un atto di offerta, uno può accettare o può rifiutare. E io dico che Maroni ha accettato questa cosa, perché non poteva non saperlo. Ha accettato semplicemente... questa cosa di non pagare, oppure ha rimandato il fatto di pagarla dopo 4 anni, probabilmente non gli sarebbe mai arrivata. Ma si continua a parlare di Maroni quando l'oggetto del contender è una pubblica amministrazione. Io come pubblica amministrazione non mi permetterei mai di non far pagare alcunché a nessuno, perché non posso permettermelo. No, questo perché da amministratore mi sembra un atteggiamento chiaro, è importante. E quindi il precedente sindaco di quella località o ha un regolamento specifico che prevede che qualche VIP che porta nome, lustro, pubblicità, ma deve essere scritto in qualche momento, e ne dubito fortemente che si riesca a trovare un modo corretto per scrivere una roba del genere. O è prevista un'esenzione specifica, altrimenti era tenuto a far pagare. Se non ha fatto pagare, ha fatto poi il sindaco. Ora, poi dopo sentiremo il nuovo sindaco, credo, di questo piccolo comune, la marina in questione Porto Corallo, nei pressi di Villa Puzzu. Se questa usanza dell'ospite illustre riguarda anche in generale un po' la costa Smeralda, credo sia quella la zona, dove è possibile che ci sia una che insomma gli amministratori ragionino anche in questi termini, anche se di questi tempi i politici come ospiti illustri che fa un po' ridere, perché insomma no, vabbè, ma a parte questo, Tosi, in realtà noi l'avevamo chiamata anche per commentare sul piano della politica nazionale il titolo che ha dato qualche giornale, credo ieri: meglio spararsi che allearsi di nuovo con Berlusconi, una sua dichiarazione in tema di alleanze sul futuro della Lega. È questo il suo pensiero adesso? Beh, ha dichiarato che sarebbe come spararsi un colpo in testa, dal punto di vista del, siccome quando ti candidi alle elezioni dovresti, fra le altre cose, cercare di raccogliere il massimo consenso possibile o ridurre le perdite, e di perdite ne abbiamo avute abbastanza a queste ultime tornate, che per fortuna non erano né le politiche, né le regionali, né europee, ma si votava in alcune realtà amministrative dove però abbiamo preso una batosta per i fatti di Belsito, Rosimauro, Cerchio Magico e compagnia bella. E quindi, visto che c'è stato un contesto anche difficile, siamo usciti da un governo con Berlusconi dove dopo 3 anni e mezzo i nostri, a prescindere dalla vicenda Cerchio Magico, la nostra gente, ma non solo la nostra gente, chiunque per strada ti diceva: ma cosa avete fatto in questi 3 anni e mezzo, cosa avete portato a casa in termini di cambiamento, di riforme, di federalismo? Ed è vero, perché purtroppo, a parte quello che è riuscito a fare sulla sicurezza Maroni, sulla lotta alla criminalità, per il resto piatto assoluto, nel senso che non si è riusciti a portare a casa nulla. Adesso riallearsi con il PDL e magari ricandidando lo stesso Premier sarebbe, appunto, dal punto di vista politico del risultato elettorale, come spararsi un colpo in testa, perché non so quanti nostri elettori ci perdonerebbero una scelta del genere. Ma quindi politicamente lo sbocco della Lega quale sarà? Se non è l'alleanza con i moderati, con il PDL, da soli pensate di andare? Dove pensate di andare? Sono una serie di ipotesi. Intanto bisogna vedere come sarà la legge elettorale, e speriamo che sia una legge elettorale che non ti costringa ad alleanze innaturali, perché appunto dopo il prezzo dell'alleanza lo paghi alle urne e dopo rischi di pagarlo anche dopo, restando magari abbracciato fino all'estremo, come è successo con il governo Berlusconi. Quindi c'è da sperare che sia una legge elettorale che ci dia la possibilità di presentarci al primo turno, di andare dagli elettori a chiedere fiducia per quello che possiamo provare a fare, e dopo contrattare con Roma. E dopo, se abbiamo dei buoni risultati, e secondo me oggi, se andassimo da soli, buoni risultati possiamo anche averli, allora dopo è anche più facile quello che ha fatto sempre la Sudtirolo Volkspartei, anziché il PAT Trentino, andare a Roma e dire: questi sono i nostri voti, noi vogliamo portare a casa questo per i territori che rappresentiamo, che ovviamente non sono dei vantaggi o dei privilegi, ma è un minimo di equità e di riforme, e andare là e trattare con chiunque ci sia a Roma, tanto siccome non vince nessuno, su questo non c'è pericolo, cioè qualsiasi legge elettorale come non vince battano, nessuno? Beh, insomma, a meno che non facciano una legge elettorale che dica che la coalizione che prende di più, a prescindere dal risultato, gli diamo il 55%, ma altrimenti... Che è quello che succede per esempio in Francia o in Gran Bretagna, esatto, con i collegi uninominali, è questo che succede. Voi siete nemici dei collegi uninominali? Secondo noi adesso, per quella che è la sensibilità dei cittadini che oggi vogliono scegliere, e per fortuna è così, il ritorno alle preferenze ti darebbe la possibilità di mettere in campo le persone più valide, e chi mette i candidati giusti porta a casa il consenso, e chi mette i candidati sbagliati perde della cosa migliore. Quindi la preferenza oggi sarebbe il massimo. Dopodiché è chiaro che non è detto che ci siano solo i partiti tradizionali, potrebbero esserci anche espressioni civiche, bisognerà vedere in quale forma, e quindi al di fuori di quello che oggi è lo schieramento politico, sì, e lì costruire un raggruppamento di riformatori, cioè di chi vuole realmente le riforme. Senta Tosi, che effetto le fa, io leggo da Libero di oggi, i comuni dove spariscono i cartelli in dialetto, si tratta di un effetto, diciamo, dell'ultima tornata, credo, elettorale, dove alcuni comuni hanno cambiato colore politico, non c'è più la Lega, e spariscono i cartelli a Lecco, per esempio, non c'è più Lec, ma c'è Lecco, e anche altrove, ad Arcole, a Palazzolo sull'Oglio, eccetera. Questa era una battaglia che l'appassionava prima no? Oppure battaglia che mi appassionava, nel senso che non è quello che comunque ti cambia i destini di una pubblica amministrazione, però credo che sia anche un fatto di radici, al di là della politica, è molto al di là della politica, c'entra niente la politica, chi ha una lingua locale radicata, la gente del paese a Valeggio sul Mincio dicono Valès sul Mens, e fra di loro lo chiamano Valès, non lo chiamano Valeggio, e come per tante altre località. E quindi il fatto che ci sia il cartello cosiddetto bilingue è una cosa turistica, folcloristica, che male non fa nessuno. Cioè lei li manterrebbe? No? Non è indispensabile assolutamente metterli, però mi pare furore ideologico toglierli. Però quando sono stati messi un po' sull'onda di questa, non furore ideologico, ma furore dialettologo. No, dovrebbero essere messi, dovrebbero essere stati messi, la ratio si spera che sia stata quella di dire: siccome abbiamo un'identità locale, sì, rafforziamo questa identità, ma senza, ripeto, una visione ideologica dietro. Ma perché una volta quei comuni si chiamavano così, una volta Valeggio mica si chiamava Valeggio, si chiamava Les. Com'è che si chiamava? Valles. Valles. Per la gente quello il nome, non era Valeggio. Però a Verona non avete questo, no? Verona è Verona. Cioè non è Verona è Verona. Lei è fortunato perché non le posso fare la domanda sul cartello bilingue, perché va tranquillo, Verona è Verona e non si discute. Però insomma, alcuni di questi, io potrei definire eccessi della Lega, che ci sono stati negli anni passati, poi magari per lei non erano eccessi, ma insomma, che forse adesso non ci saranno più, no? Cioè non ci sarà una battaglia di nuovo in questi comuni dopo, se verrà rieletto uno della Lega, per mettere... possa mettere a che sia della Lega, del PD, del PDL, cioè se nel suo comune c'è un forte radicamento e c'è un nome che è più sentito quasi del nome ufficiale, nulla di male a mettere... Cioè deve essere una decisione sentita dalla comunità, non una decisione politica del politico della Lega, perché solo per agitare la bandiera del dialetto. Assolutamente. Quindi per esempio quello che ha detto Bossi l'altro giorno su Manzoni era un po' una forzatura, che ha detto che... sì, in effetti non è che uno possa stare dietro a tutto, anche se è l'ex segretario del suo partito. Ha detto che Manzoni è un traditore canaglia, che è stato usato la Red Italia a suo tempo per imporre l'italiano sul resto dell'Italia, e che non è un grande scrittore, ma è solo il primo scrittore che ha scritto nella lingua italiana. Manzoni ha scritto dei romanzi meravigliosi. Dai Promessi Sposi, che sono i più noti, alla Storia della Colonna Infame, cioè ce n'è di cose che ha scritto Manzoni che sono veramente avvincenti, sì. Cioè, e quindi credo che definirlo uno strumento grande della lettura italiana, credo che insomma offendolo sia offensivo nei confronti del popolo italiano e anche della grande capacità di Manzoni. Beh, questa è una dichiarazione notevole di Tosi, una presa, non è naturalmente la prima. Se sentiamo Bossi, così vediamo anche proprio le parole sentiamo le parole che ha usato esattamente qualche giorno fa su Manzoni. Bossi: noi abbiamo diritto alla nostra libertà, punto. Non ci frega niente dell'Italia. Guardate che l'Italia, quando fece l'Italia, non c'era la lingua italiana. Il re, che nel caso lì fu intelligente, capì che per fare un regno bisognava avere una lingua. La lingua non c'era. Trovò un grande traditore, una canaglia, che si chiama Alessandro Manzoni. Manzoni fu la canaglia che lavorava per il re del Piemonte e per il Savoia. Vabbè, queste erano le parole usate da Bossi su Manzoni. Tosi insomma ha puntualizzato, ha detto non si può stravolgere, insomma. Manzoni non scriveva certo perché re gli aveva detto di scrivere qualcosa. Manzoni, quindi, è Bossi, della letteratura italiana. Bossi va per la sua strada, cioè continua a dare le sue forzature anche della storia italiana, perché insomma il suo essere politico è legato a questo tipo di... Come interpreta lei queste dichiarazioni? Francamente, penso, sono giornate molto calde, quindi può essere anche quello. Insomma. Insomma. Vabbè, dato che si tratta di Bossi e di una persona che ha anche avuto problemi di salute, mi fermerei qua. Una cosa le vorrei chiedere, Tosi, non c'entra nulla assolutamente con quello di cui abbiamo parlato, poi la salutiamo, visto che è l'ora di cena. Però lei da amministratore, qualcosa su... la vicenda Ilva, se toccasse a, visto che insomma di industrie ce ne sono anche in Veneto e non poche, cosa si dovrebbe fare secondo lei per tirar fuori l'Ilva da questa questione, cioè salvaguardare l'occupazione, sta a cuore a tutti, bisogna fare quello e gli interventi correttivi, cioè quello di chiudere l'attività si rischia di causare un danno catastrofico alla comunità locale, cioè c'è mezza Taranto che ci lavora, sì. Quindi bisogna, ovviamente, se però venisse appurato, basta verificare le emissioni, cioè ci sono dei parametri ben precisi in termini di emissioni, sì. Si verifica cosa emette in atmosfera e si impone, dando un termine ristretto rapido, il più rapido possibile, alla proprietà di intervenire con appunto gli interventi. Quindi la proprietà dovrebbe intervenire, aiuti pubblici non dovrebbero arrivare. No, perché un discorso è la bonifica dell'area. Dell'area, che, sì. E lì, sinceramente, non, per carità, io la vicenda la conosco per quella che lo vedete sui giornali, però un problema sono i fumi, cioè le emissioni. Sulle emissioni si devono l'azienda, essere monitorate. Tocca l'azienda. E se gli si dice all'azienda, la bonifica stessa dovrebbe toccare all'azienda, ma quella non dovrebbe essere un fattore che scatena cause di inquinamento, problemi oncologici o che, perché il sito inquinato è una cosa nel lungo termine che va affrontata dall'azienda, non certo dallo Stato, ma non ha i caratteri emergenziali delle emissioni dei. Quindi la bonifica può toccare anche allo Stato, ma la questione chiave dei fumi e dell'inquinamento deve farla l'azienda, tirando fuori. Deve farla assolutamente l'azienda, anche la bonifica dovrebbe farla l'azienda, perché se ha inquinato dovrebbe farla la bonifica, dovrebbe toccare l'azienda, ma ripeto, il problema vero di solito emergenziale sono i fumi e non il sito con lo stoccaggio delle scorie eccetera, che quello ha tempi medio lunghi, per quello non si chiude un'attività, l'attività in genere si impone di chiuderla in emergenza se ci sono delle emissioni cancerogene dai camini, però non mi pare sia il caso da quello che ho capito, francamente. Non lo so nemmeno io, perché poi la vicenda ha anche dei risvolti tecnici. Quella di chiudere dovrebbe essere veramente l'estrema razza, cioè se non ci fosse nessuna possibilità. Però chi è che deve imporre all'azienda, se non è una sentenza della magistratura? No, è chiaro che l'azienda deve essere la magistratura. È chiaro che deve essere la magistratura, però bisogna sempre considerare i vari interessi in gioco, e quindi se c'è la possibilità, se non c'è la possibilità, allora tanto bisogna vedere se i fumi sono inquinanti, se non lo sono, se non lo sono, mettiamo che lo sia. Questo però mi pare abbastanza, insomma, i livelli non lo so, ma che sia abbastanza appurato questo. Ecco, se sono al di sopra dei livelli, a quel punto bisogna farli rientrare. O c'è una possibilità tecnica, che normalmente c'è, di intervenire sui camini o che, sì, per evitare queste emissioni, e imponi un termine utile all'azienda di farlo, un termine utile e breve. Non c'è nessuna possibilità tecnologica per poter affrontare il problema, allora imponi la chiusura, però insomma questa deve essere veramente l'ultima delle scelte. Va bene, grazie Flavio Tosi, buona serata. Grazie a voi, arrivederci, buona serata. Adesso salutiamo Ercole Viri, nostro prossimo ospite, sindaco di Affile, siamo in provincia di Roma. Buonasera. Sindaco, buonasera. Buonasera. Abbiamo convocato per commentare, parlare così di questa operazione nostalgia, vogliamo chiamarla così, nostalgia di cosa? Del fascismo, del movimento sociale? No. Adesso diamo la notizia. Poi lei, concittadino. Adesso diamo la notizia, perché poi lei ci spiegherà, ha già fatto sui giornali. È stato inaugurato il parco di Radimonte, dove c'è all'interno un sacrario dedicato al maresciallo Rodolfo Graziani. Chi ha studiato un po' di storia se lo ricorderà, impegnato nella guerra, prima nel colonialismo in Africa e poi insomma durante la Seconda Guerra Mondiale. Un sacrario a un personaggio un po' discusso, va bene l'abbraccio con Andreotti, che ci fu, è stato presidente onorario del Movimento Sociale Italiano tanti anni fa, quindi ha già subito una sua riabilitazione, però perché dopo tutti questi anni andare a dedicare un sacrario, sindaco, a uno che ha firmato il manifesto sul razzismo e ha gasato gli africani d'Etiopia? Allora, prima di tutto il maresciallo Graziani è il nostro concittadino più illustre, va rivalutato sicuramente anche alla luce di quanto lei ha detto. Quello che a noi è una luce un po' oscura, un po' sinistra, no, questa. No, è la storia, poi ci darà ragione, non si preoccupi. Anche il fatto che si è parlato di gerarca fascista, si è parlato di crimini di guerra, cose del tutto assurde, perché la sentenza parla chiaro. C'è un atto, una sentenza espressa da un tribunale militare che lo ha condannato, sicuramente, però. Condannato per collaborazionismo con il tedesco. Quindi noi eravamo alleati e lui è stato condannato per collaborazionismo. A 19 anni condonati di 13 anni e 8 mesi perché per motivi di particolare valore morale e sociale. Questo è quello che ci interessa a noi. Senta, ma no, vabbè, la storia poi si fa con le sentenze, certo, certo, ma anche con i giudizi in generale. È la sentenza che vale. Ma è il vostro concittadino più illustre, no? Sì, a parte, sì, che essere illustri per meriti disonorevoli non è che sia sottolineare. Come la mettiamo con il manifesto razzista? Il generale Graziani era già colonnello all'età di 36 anni prima dell'avvento del fascismo. Sì. Ecco, pluridecorato, lui a 36 anni, se avesse concluso la sua carriera, già per noi era un motivo di opera a file. Però quindi è andato... Come la mettiamo col manifesto razzista, per esempio? Avrà sicuramente commesso qualche errore. Non è che noi non lo onoriamo perché è un santo. Noi lo onoriamo perché è stato un uomo leale, onesto, coerente, che si è fatto, capito, volte, però stato qualche evento ha gasato il tribunale di cui il popolo che poi è eritreo ha fatto campi di concentramento in Libia, insomma era la guerra, non era una cosa leggera, era un soldato. Ma no, scusi, Graziani. Guardi Viri, oggi a Roma un gruppo di cittadini sono andati sotto casa di Erich Priebke per sottolineare il loro scontento per il fatto che lui gode di libertà, nonostante è stato condannato all'ergastolo, però per l'età che ha raggiunto, oltre 90 anni, gode degli arresti domiciliari. Anche lui eseguiva gli ordini. Allora, come la mettiamo? Anche Priebke, che era uno che un leale, fedele soldato dell'arma? Scusi, Graziani ha prodotto gli ordini impartiti da Badoglio e da Mussolini. Li ha messi lì sulla scrivania del giudice e il giudice lo ha dovuto assolvere. E non potendolo condannare, perché avrebbero voluto condannarlo per i crimini che lei dice, lo hanno dovuto condannare per collaborazionismo con l'alleato. Quindi ecco, abbiamo detto tutto. No, lei non ha risposto a nessuna domanda, sindaco. Ho capito questo, che a lei della storia non gliene frega niente, assolutamente. Bravissimo. Ecco. No, della storia non me ne frega niente. Però lei deve rendere conto ai cittadini. Perché ha speso 130.000 euro per una roba di cui non gliene frega niente a nessuno? Diciamolo chiaramente, perché di questa roba qua non gliene frega niente a nessuno, solo a lei, dal punto di vista politico. Dentro questo parco pubblico, Parco Radimonte, c'è questo sagrario che ricorda il nostro grande concittadino. Io in quegli anni, nel 2009, ho presentato 24 progetti. È la Regione Lazio, Giunta Marrazzo, che me li ha dati. Io non ho detto datemi i soldi che voglio, mi hanno dato 130.000 euro. È colpa della Regione, allora. Cioè, certo, è la Regione che ha scelto. Ma io non, guarda che io non sono andato con il Midra a dire datemi i soldi per fare un sagrario. Io ho presentato 24 progetti nel 2009 e loro me ne hanno finanziati due, tra i quali il Parco Radimonte. Non è colpa mia. Se non presentava il progetto col sagrario a Graziani non glielo finanziavano, sì. Questo almeno questa è responsabilità sua, se no sembra che sia sbucato dal nulla. Sa, perché in tempi come questi, di crisi vera, di spending review, di comuni che cercano di tirare la cinghia, non capisco come faccia a andare orgoglioso di questa cosa che sembra un po' uno schiaffo alla miseria. 130.000 euro, lei va orgoglioso di questa spesa? Ma certamente, è un parco fantastico, un sagrario dove si può onorare il mio... Ma a cosa serve in un paese di 1.500 abitanti un parco fantastico con questa spesa folle? Ma quale fu spesa folle? 130.000 euro per un gioiello che abbiamo creato, quale è spesa folle? Le spese folli sono altre, no? Cioè lei proprio va avanti, non gliene frega assolutamente nulla, né della crisi, né della necessità di tagliare le spese, né di una cosa che va indietro nella storia, ma veramente, ce n'era bisogno? Certo che ce n'era bisogno. Perché? C'era bisogno perché noi... Chi aveva bisogno di questo? Alla cerimonia di inaugurazione c'erano 50 persone. No. E questo, ecco, questo, il fatto della mistificazione della realtà che ci dà fastidio noi affilani. Questa è la mistificazione. Pensi un po' che un giornale è riuscito a riportare l'articolo con un'intervista al figlio di Graziani, quando Graziani non aveva figli. No, no, ma io non ho citato niente di sbagliato, credo. Ho solo letto le cronache e ho visto che c'erano una cinquantina di persone. Il giornalista Lo è riuscito a intervistare il figlio di Graziani. Graziani non ne aveva. Sì, però lei è specializzato nel non rispondere mai alle domande. E purtroppo, però, qua è così: ce le faccio le domande e lei dà delle risposte, gli ascoltatori ascoltano e si fanno un'idea. Se no. Certo, certo, ma guardi, scusi, Noi abbiamo, ad esempio, a Neviano, in provincia di Lecce, una via intitolata Rodolfo Graziani. A Filippino addirittura c'è un parco, una via e un museo intitolata Rodolfo Graziani. È lo stesso Rodolfo Graziani, è lo stesso che abbiamo celebrato noi. Perché a Filippino e Neviano lei non ha fatto una trasmissione dicendo al sindaco? Perché c'ha, oltre al parco come il mio, finanziato per lo stesso anno 2009 per 200.000 euro, sono gli stessi soldi che hanno dato a noi 130.000, a loro 200.000. Perché, siccome lì c'è il sindaco di Rifondazione, non siete andati a dire come mai? Guarda, io l'altra domanda che le posso fare è come mai sul sito del vostro comune c'è prima notizia il parco a Rodolfo Graziani, seconda notizia il busto ad Almirante. Cioè, sembra che voi fate proprio politica, non lo so come dire, cioè tutte iniziative di questo tipo. Non facciamo assolutamente politica. Il fatto che noi onoriamo le persone che riteniamo degni di essere onorate. Almirante veniva da... un po' a senso unico, insomma. No, quantomeno. E qui non abbiamo nessuno di sinistra da onorare, scusi, No, ma i cittadini magari di centrosinistra che possono non apprezzare. E comunque, ripeto, 130.000 euro per un personaggio quantomeno controverso come Graziani. Lo dice lei, io non... No, ma non lo dico io, lo dicono i libri di storia, lo dicono tutti. Lo dice Graziani quando ammette di aver usato i gas per ammazzare gli africani in Eritrea. Ha prodotto gli ordini impartiti. Tanto è vero che non è stato condannato, lì si ritorna tutto sempre alla sentenza, scusi, è la sentenza che parla chiaro, assolto per non aver commesso... Vabbè, io penso che gli ascoltatori hanno già capito tutto quello che c'era da capire. Sì, hanno capito, sì. Non lo so, poi se vengono qui ad Affile... Ma non ci viene nessuno ad Affile, ma chi vuole che ci venga ad Affile a vedere cosa? Il sacrario di Graziani, non gliene frega niente a nessuno, solo a lei gliene frega. Se lei mi ha chiamato, mi fa la trasmissione, significa che gli interessa. Se no non mi chiamava. No, mi interessa dal punto di vista, non lo so come dire, politico, sociale, antropologico. Cioè, vorrei capire a lei cosa le è passato per la mente e in regione di finanziare questa cosa qua. Io dico a lei, come mai lei si interessa di Affile e quindi gli interessa la cosa? Se no non mi avrebbe chiamato, no? Non mi è mai... Guardi, il mio interesse per Affile è iniziato 10 minuti fa e adesso fra 30 secondi finirà. Ma se lei dice che non interessava nessuno, perché lei mi fa una diretta a livello nazionale radiofonica, scusi, se non interessa nessuno? Perché lei ha fatto una cazzata, sindaco, ha fatto un'enorme cazzata e sulle spalle dei contribuenti, ed ecco perché l'abbiamo chiamata, a rendere conto di questo. Il mio interesse finisce qua. No. Guardi che lei mi ha chiamato e questo mi fa onore, la ringrazio per il dato. Ma non c'è onore, io le ho fatto delle domande perché penso di interpretare il sentimento di molte persone che le avrebbero voluto fare queste domande, le ho fatto le domande che le avrebbe fatte tanta altra gente, le ho fatte, lei ha praticamente non risposto a nessuna e basta, finisce qua. Io gli sto dimostrando che ci sono parchi, via, musei intitolati a Graziani in altri paesi dove non siete andati a fare le trasmissioni. Io non capisco perché... Sì, ma intitolare una strada è un conto, spendere 130.000 euro per fare un sacrario è un'altra cosa, ha capito? 200.000. No, a Filettino, lo stesso finanziamento nostro, scusi, ma perché i 130.000 miei di euro valgono e i 200.000 euro di Filettino non valgono? Sono di più 200.000 di... Allora, guardi, domani facciamo un'intervista anche a Filettino. Glielo prometto, non c'è nessun problema, non è mica una questione di nomi o di cose, è una questione di sostanza, è questo il punto. poi i 130 sono minori di euro di 200.000. Sono buttati via questi e quegli altri, mettiamola così, almeno questo è il mio punto di vista. Poi, sì, però lei viene a spendere, viene a criticare la spesa di 130.000 euro per un parco quando ce n'è un altro di 200.000 e io ne posso fare una alla volta l'intervista, non è che posso fare una mucchiata tutti insieme tutte le strade d'Italia intitolate a Graziani. Di errori se ne fanno tanti, di spese inutili se ne fanno tante. Noi stiamo qua due ore e mezza ogni sera e ne affrontiamo sa quante. Che sia addebitabile. Pronto? No, non ho capito l'ultima cosa che stavo dicendo. Andate anche a Sellettino, che lì vi aspettano. Vabbè, domani, domani non lo so, insomma, vedremo. Noi siamo tutti tranquilli, stiamo aspettando il concerto di Paolo Belli, e dopo domani ci abbiamo uno spettacolo Alfiero Alfieri, abbiamo un paese fantastico, venite a trovarci perché starete benissimo. Buonasera, Viri. Grazie, grazie. E termina qua questa puntata di Ferragosto della Zanzara. L'appuntamento con noi è per domani dopo il GR delle 18 e allora a domani. Buona serata a tutti.